solo col sorriso regalare il paradiso ad un mondo che non può ridere. E mi ritrovo in te quando mi vedo. Seguo con i passi la mia vita.